Allora, quanti la fraintendono, celebrandosi, tagliando spazi e margini. Una realtà che ti immagini, agita una polveriera, vita in galera, eroina nella vena, bugia perché fa scena, non la impari nei mass media. Ridicola montatura per chi senza cultura ci si identifica con una ricola. Non è che canti meglio se sei capo di chi il rap lo intende moda del momento. Vedo che il messaggio non arriva a quanto pare. Se a lei piace il rap solo perché se lo fa ballare, male, va per il divertimento. Fraintendi che intendo fare, se vieni sei lì per ascoltare. Guarda, lascio stare, sto in quarantena. Contagio della musica, l'unica salvabile e vera. Fiocchi d'avena, flusso, rap, arteria e vena. Non so voi, io resto vero in questa scena. Sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena, testi bassi, scratch e spray. Sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena, testi sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena, testi bassi, scratch e spray. Sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena, quattro quarti quanti sono i rullanti in cui testo testi montati da insegnamenti. Troppi concetti spenti, mode temporanee, civiltà dell'immagine rende fragile sto margine. Strapperei pagine se non mi riflettessero. Onesto, psicolabile ma stabile in me stesso, come alla esso. Carico il serbatoio per venire al rasoio sul foglio, più gasolio, auditorium, lettori digitali, estinzione, rapporti umani, nazione tra cavi. Navighi ma fermo lo schermo, va reso schiavi. Messaggi subliminali nelle hit commerciali, rap traviali, magari forza l'etica, bagaglio di esperienza sintetica che si eredita. Formo testi in cui informo nella mia metrica, termini inesistenti dei giudici dell'estetica. Sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena testi basi, scratch e spray. Sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena testi sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena testi basi, scratch e spray. Sto è contagiato dalla merda che c'è in giro. In quarantena se musica non strana, hardcore o valeriana, musica vera insegna la persona se riempara ogni giorno della settimana. Ce l'ho intorno, non è il contorno ma da conforto se l'affronto. Musica di questo parlo e ci soffermo, quella vera non quella adattata a teleschermo. Ed è uno scherno le hit che pompano il pubblico di quelli che sentono ma non ascoltano. I CD li scontano ma sono scontati, testi banali e musichette dei locali. Alimento me stesso, combattiti rullanti, non rappo per i clienti ma accetto i brutti commenti. Non faccio rap trendy da suonerie, né gangsta nica se sono bianco come il Brie. Sai com'è il suono quando crei basi, testi, gesti, live e suono del DJ.